di schizofrenia. Il prete ti convince che il diavolo ti possiede. Davanti al pianoforte ho le visioni, come te che ti avvicini e mi chiedi: allevi suoni? Dovrei guarire, ma detto tra me e te, ho meno chance delle previsioni. Mette, oh! Magari chiedo scusa ai leghisti, magari scrivo a caratteri cubitali. Voglio la padania libera via dall'Europa per il gusto di chiamarvi extracomunitari. Chiedo scusa a discotecari, fighetti, politici, elfi, facocci, rinomi e re, che poi dicono gli artisti sono comunisti. Comunisti ce li avete in testa come me. Dicono che devo calmarmi e respirare un po' di più. Dicono che devo staccare il cane da quell'auto blu. Dicono che gli omini del calcio bali la testa in giù. Non vanno bene, va bene, va bene. Ma poi dicono che non devo accomunare fede e schiavitù. Dicono che dovrei baciarmi a stampo come le tattoo. Dicono che mi spediranno in cielo come una Soyuz. Ok, va bene, va bene, va bene, avrai ragione tu. È tutta colpa di ragazzi troppo avari, cercavo spazio e mi mandavano a Gagarin. Ora li osservo seduto sulla panchina dopo averli legati e posizionati sui binari. Sono un treno che viaggia sulla quarantina, ma non ho ancora smaltito l'adrenalina. Dovrei essere pacato come De André, sto come il rapper André a 3000 con la voglia di saltare su